La fabbrica dei numeri nasconde nella mano parcelle di professionisti, code di aeroplano. Ci parla nei telefoni e con le chiavi in mano sorpassa le automobili, ci guarda da lontano. Riguardo la sua immagine riflessa sul divano, la fabbrica dei numeri mi fa sentire umano. Incontra te che sperperi passati rimanenti, la fabbrica dei numeri ti accoglie nei presenti. Se tutto ti è possibile, tutto ti appare vero, la fabbrica dei numeri si avvolge nel mistero e vince nei recuperi, trasforma foglie in oro, ventagli in frigoriferi, condanne in un perdono. La canti mentre ti isoli, e quando il grido è un suono, la fabbrica dei numeri ha preso il volo. E intanto tu non puoi capire che servì, la fabbrica dei numeri che ha fabbricato te. E studi nei suoi libri, lavori nel suo grembo, la fabbrica ti spettina, ti fa sembrare stanco, ci informa dai satelliti, senza emettere un'onda, la fabbrica sa tutto e non occorre che risponda. E vince nei recuperi, trasforma foglie in oro, ventagli in frigoriferi, condanne in un perdono. La canti mentre ti isoli, e quando il grido è un suono, la fabbrica dei numeri apre. Fabbricato te.